Oh, madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Di sera esco dal bar dopo 10 ore di lavoro e l'unica cosa che vorrei sentire è Parenzo che fa l'imitazione di Capanna. Parenzo numero uno, non mollare David! Crucia, non puoi capire che piacere il fare una versione con sotto la zanzara, con sotto Mauro da Mantova, con sotto Donato da Varese. Mamma mia! Ma il primo era veramente matto, eh? Il primo era veramente matto perché è uno che adorava le tue imitazioni del professor Capanna. Non so di che cosa parli, non ho idea. Cioè, pensa che sia un'imitazione, ma in realtà è lui che si introduce ogni volta. Non lo so. Sì, no, incredibile, infatti. Allora, un Renzi sempre più berlusconizzato, caro Parenzo. Bravo. Ci manca solo che dica, che ne so, che indossa la canottiera Made in Italy ovunque va. Sentiamo questa cosa su Uomo Mutante, che è molto interessante, perché fa pubblicità, credo, a una grande marca. La nomina lui, dunque non c'è bisogno che la nominiamo noi, anche se ce ne fottiamo di queste cose. Io indosso un certo tipo di mutande, signor Renzi. Poi dice anche che il vino italiano è meglio di quello francese. Non so, può dire anche questo, che ce l'abbiamo più lungo. Sta. Potrebbe dire che meglio. Questo. Beh, potrebbe indossare la maglietta Italia. Però do it sul better. Vino ci sta, era il vino Italy. Sì, che vabbè, deve dire, ma che bisogno c'è di dire il vino italiano dire, è meglio? La Merkel quando va alla fiera lì alla non dice la birra. Dice che la birra migliore è quella italiana, non credo, no? Ma che c'entra? Questo è normale, dai. No, non è le mutande già meno. Ma di che ce l'ha, gli italiani lo fanno meglio, che scoprono meglio e fai bingo, no? A questo punto, dai. Io mi ero preparato perfettamente, avevo il golfino a falconeri, me l'hanno fatto togliere. Ho anche la mutanda intimissima, ma ve la risparmio. Credetemi sulla parola, il calzino si può verificare, la mutanda, credetemi sulla parola. Le mutande intimissimi, se sentiva un cazzo comunque, le mutande intimissimi. Il vino, vai col vino! Noi abbiamo i prodotti più buoni del mondo. Jack, il nostro vino è meglio di quello francese. Tu non lo puoi dire. Io sì. Io non lo posso dire perché... Io... Quando l'ho detto a François Hollande, lui mi ha detto sì, può darsi, però il mio è più caro. Game, set, match, François Hollande. Allora, io però mi soffermerei su una cosa, non tanto su Renzi che dice che c'ha le mutande intimissime, che il vino italiano è meglio di quello francese, che chi se ne frega, fa parte del marketing, della politica, della, sì, no, della campagna elettorale. Ma dell'orgoglio italico, dai. Ma no, dell'orgoglio italico di uno che va in giro a Vini Italy e fa qualche battuta, le solite cose, dai, non cambia nulla. È Grillo, beh, Grillo, ragazzi. Grillo, Grillo che dà l'ostia alla fine. No, ostia. Ma ne ha dette di tutti i colori. Durante, credo, i suoi spettacoli, ormai il ruolo di Grillo non si riesce più a distinguere, quello tra comico e politico. Sì, no? Non si è mai distinto. Sì, non si è mai distinto, però per un certo periodo non faceva nemmeno gli spettacoli. Poi adesso ha ripreso a fare gli spettacoli, dunque e gioca molto su questa cosa. Cioè, dico una cosa in quanto comico e voglio tornare a fare il comico, sì, oppure sono un politico che ogni tanto si permette delle battute. Per esempio, è stato criticato molto perché ha dato dei grilli da mangiare, sì, dei grilli agli spettatori, ad alcuni deputati, come per dire vi metto qualcosa di grillino dentro, sì, no? Nel corpo, nel esatto, corpo, nel molti corpo. Hanno detto, no, una cosa tremenda, una specie di una buffonata, dai. Ora qui abbiamo il grillo caramellato. Questa è una cosa un po' che mi mangio da solo. non è male. Ora voglio vedere se qua c'è un grillino di quelli veri. Alzati. Sei pronto a ricevere il mio corpo? La cosa meravigliosa è quando dice che le industrie è a Torino, no? A un certo punto dice che basta, Torino è ferma al motore. Morte, Torino aspetta, è morte. Aspetta, senti, il futuro è l'aereo solare. Sì, tutti normale. Voleremo con l'aereo solare. Magari c'ha ragione lui. Ti ricordi quando, l'hanno preso, quando lo prendemmo per il culo per le cose in 3D? Per l'auto. No, ma per sì, le cose in 3D. Sì. Poi a un certo punto arrivarono i mesi successivi tutti notizie. Sì, ma non è quello, non è quello. Però senti, senti questa cosa. Quali sono le industrie oggi? Non ce n'è più una di automobili, una di petrolio. Sono gente che fa informazione, vende bit, vende big data, vende tecnologia, vende velocità di computer. E Torino è rimasta ferma al trattore, al motorone, alla pesantezza, alle cose. Oh, leggerezza, futuro è Picard che fa il giro del mondo con un aereo solare, con pannelli solari, il giro del mondo. Il futuro è Picard che fa il giro del mondo col pannello, con l'aereo solare. Ma la Merkel va sempre col pannello, ovunque, dai. Ma no, dai. Su. Ce l'ha attaccato nella gobba, ma ragazzi, ma dove vivete? ma va, è che così. La Merkel... Scusi, Grillo, che... Produce, Merkel... gira l'Europa con questo pannello solare incredibile, si muove, non mangia neanche, perché col pannello solare prende energia dal sole, cazzo. Ma no. Ma voi della Confindustria, ma cosa... Ma perché non lo fa, Boccia? Di attaccarsi immediatamente un pannello con Quincy e girano tutta Italia col pannello solare. Il pannello bellissimo. Solare non è possibile. Voi alimentate il petrolio per quello. Ah no, Grillo, non è possibile che la Merkel va in giro per l'Europa. Normale, ma l'avete vista che è tutta gobba, no? Perché c'è questo pannello enorme che gli hanno montato nel sedere dietro e si alimenta con il sole. In Germania lo fanno. Lo fanno ovunque, in Germania, nei Länder, in Baviera. Tutti in Baviera girano con questo cazzo di pannello solare. Poi piglia un po' per il culo i vegani, anche se non osa troppo. No, senti, non osa senti. Perché sono suoi elettori. Sì, alcuni. Perché moltissimi tra l'altro. Sì, no, io sono sicuro che il 90% dei vegani, col 90%, vota Grillo. Per Grillo, per le scie chimiche. Per, no, per Grillo. No, dai, no. Sì, il 90%. Aspetta. 90%. Possible food, impossible food, ma ci stanno lavorando. C'è pieno di vegetariani, io ne so qualcosa. Io ho una famiglia che è vegana. E gli altri mangiano, capisci? E gli altri sono carnivori. Quando vado dai vegani non puoi dire a un vegano la tagliatella col tofu, no? Con il ragù di tofu, io non puoi dire cos'è. Devi dire buono. Ma guarda che ma non trovo differenza. Poi da solo mi do delle coltellate. Però se no entri in una trappola che non ne esci più. Cioè davanti alla parte di famiglia vegana di Grillo lui preferisce. Dice di mangio il ragù al tofu, no? Il ragù al tofu si ferma, dice, oh, però più o meno lo stesso odore. Il mondo va verso, qui sbaglia, il vegetarianesimo. Che cazzo dice qua? Il mondo sta andando verso il vegetarianesimo, il non mangiare carne, quindi le industrie si stanno preparando sul cibo. Il cibo è una questione di sicurezza. Sì. Di sicurezza nazionale, quindi passi dall'erba alla bistecca e levi la mucca. È fantastico. Mamma mia, siamo circondati ormai, Parenzo, eh? Siamo circondati. Siamo una minoranza circondati. Silenziosa. Siamo circondati. Silenziosa. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, sono stato sollevato durante il weekend da un grandissimo studio che è stato pubblicato, caro Parenzo, anche se io non credo agli studi, non credo a queste puttanate che vengono fuori, però in questo caso ci voglio credere perché è sbagliato, dice uno studio, fare la doccia tutti i giorni. E tu meglio... avevi bisogno di questo? Non no? Avevo bisogno dello studio, però sono confortato da questo studio. Fare la doccia tutti i giorni non è necessario e meglio addirittura uno o due volte a settimana. Mamma mia che puzza, ragazzi, stupendo. Che puzza. In termini ragazzi, di salute, in termini di salute, uno o due volte a settimana può bastare. Sì, e direi che io degli altri, e direi che io sono perfettamente nella media, perfettamente nella media. Dunque sono molto contento di questa roba qua, molto molto contento. Vorrei capire, Salvini, quante volte si fa la doccia? Spero tante. Buon pomeriggio, bonsoir, Daglione, bonsoir. Una birretta in mano, in attesa dell'aereo. La birretta in mano. Stamattina. Hai fatto stamattina, sì. Ma quante volte te la fai la doccia, Matteo? Se riesco, una volta al giorno. Bravo, meno male. Una volta al giorno. So almeno questo. Male, però. Dico, no, meno male, almeno questo, bravo. Ma addirittura no, perché di vedi, Salvini, Cruciani... Adesso bravo, almeno il questo. Il fenomeno comincia a questionare anche... sul numero di docce che no, io sono con... no, io questa volta sono d'accordissimo con te, sapevo che sei una persona pulita. Cruciani sostiene da mesi che anche pulirsi il sedere non va bene, che lavarsi è sbagliato, ma e si lava una volta questo. A settimana, no, no. E, e fa questa propaganda in cui dici che è giusto non lavarsi. Salvini fa una cosa giusta, bisogna ammetterlo, si lava una volta al giorno come tutti i cristiani o gli ebrei. Però bisogna dire una volta, normali. Matteo, hai fatto una figura con Mattarella, mamma mia. Parenzo, digli tu qualcosa, una sì, figura. No, questo è incredibile, veramente. Una figura veramente bella. Cioè, dagli dell'ubriacone, perché ha detto delle cose di assoluto buon senso. No, l'ubriacone, il Vinitaly è una manifestazione straordinaria dove fortunatamente ti fanno assaggiare tanto vino e vino di splendida qualità. No, ma ho capito, ma tu gli hai dato gli altri dell'ubriacone. A Mattarella il fatto che, no, ma che scusami, abbia Matteo, tu hai assaggiato del buon vino. No, no, ma tu pensavi che parlasse di immigrazione, in realtà parlava del vino, dell'export del vino. Ragazzi, in principio lui può parlare anche dei cormorani, ma quando parli di confini e frontiere, un momento storico come ma questo, parlava del vino. Sbagli a chiedere che non esistano le frontiere per l'ingresso di uomini, ma sbagli anche a chiederle di superamento dei confini e frontiere per quanto riguarda le merci, possono essere vino. Ma scusa, ma in questo caso il vino italiano non venderebbe. Se metti le ma ragazzi, il vino italiano fortunatamente vendeva prima di Schengen e vende dopo Schengen. No, ma... non è che abbia cioè vuoi bloccare qualcosa. Secondo te senza export il vino italiano sopravvive lo stesso? No, ma ragazzi, fortunatamente il Made in Italy in uscita è amato in tutto il mondo. Il problema è quello che entra in Italia. No, i dati però... dell'agenzia delle dogane, ma magari Mattarella è distratto e sonnolento, non lo sa. Dicono che ogni anno noi perdiamo 40 miliardi di euro per i mancati controlli. Ma quello è un altro discorso. Merci che arrivano da tutto il mondo. Quindi Mattarella, controlliamo i confini per gli uomini e per le merci, d'accordo. Perché ci smeniamo un sacco di quattrini. Però scusami, hai sbagliato perché hai pensato che lui parlasse di... Ho sbagliato. Quando direi presidente per l'ennesima volta dice via, il futuro dell'Italia non prevede confini e frontiere. No, ma hai preso una toppa. Intanto perché... oggi pomeriggio l'Austria sta costruendo una barriera di protezione al Brennero. Ma di cosa stiamo parlando? Ma questo è un altro discorso. Torna adesso sulla terra, Mattarella, fai due passi fra la gente normale senza scorta e vedrai di che cosa hanno bisogno le perché persone normali. Ma secondo te ha bisogno della scorta Mattarella o no? Oggettivamente, secondo diventare te. Pubblica, immagino che sia super scortato. Poi, per quello che fa e per quello che dice, penso che potrebbe passeggiare anche in perfetta solitudine sul lungomare. Non succede nulla, non succede nulla. Perché è come un vecchietto che nessuno considera di mancare. Perché non dice nulla, veramente dice, incredibile. O no? No, ci sono vecchietti molto più arzilli, tu fortunatamente. Dici. Cioè. Ma questo veramente è vilipendio del capo dello Stato. È un vecchio rincoglionito. Lo consideri un vecchio rincoglionito, dai. No, non mi permetterei mai. Gli ho rimproverato che secondo me quel genere di intervento possa riguardare gli immigrati clandestini. Ma parlava del vino. Ma se uno parla del vino. Ma non parlava di immigranti, parlava di altro, di eccellenza italiana. I confini vanno controllati. Perché far entrare 180 miliardi di prodotti contraffatti. Ma se uno parla di vino e delle frontiere, di vino e tu gli dici, gli rispondi. Ma scusa, perché il vino italiano 10 anni fa non lo esportavamo, 20 anni ma fa. Ma se tu dici, se tu allora mettete in un centro di permanenza il vino abbiamo francese. Abbiamo bisogno dell'Europa e di Mattarella per esportare il vino italiano. Create i CPT anche per il vino spagnolo. Fermi tutti che c'è il traffico, fermi. Agli stronzi sgonfiate le gomme. No reato, no pena. Traffico. La Zanzara. Dunque, diciamo la verità, non chiedi scusa a Mattarella, Salvini, non chiedi scusa, Matteo. Non c'è niente da chiedere scusa al Presidente della Repubblica. Perché cosa? Perché gli chiedo di difendere i diritti dei lavoratori italiani. No, perché ti sei sbagliato, cosa che dovrebbe fare. Gli hai dato del complice del venduto, mentre quello parlava del vino, non parlava no, di... No. Io gli do del complice del venduto se non difende i confini italiani e il Made in Italy che viene truffato da ma quello mica mica è compito suo, quello è come il Presidente della Repubblica, dirlo al governo, casomai. Ma fai il Presidente della Repubblica, parla di altro. Non vabbè. Rompere le scatole con i confini e le frontiere mentre ma tutto parlava il resto del del mondo vino. I confini e le frontiere le controlla. Allora io voglio capire una cosa, ma questo muro tu dove lo metteresti? Adesso l'Austria lo vuole mettere, tu dove lo metteresti sto muro? No, io non voglio muri, non voglio come muri, no? Fili spinati, ponti levatoi, coccodrilli. Mi piacerebbe semplicemente avere controlli come alla Svizzera. No, come alla Svizzera, in Svizzera non ci sono i muri, però quando vuoi entrare in Svizzera ci sono le frontiere. Scusi Parenzo, lei chi è? Ha un documento, dove vuole andare, cosa vuole fare, cosa ha nel bagagliaio? C'è quello, ripristinare le frontiere, in Svizzera c'è la frontiera, si va lì, si dà un documento, si fa un check. Perfetto. E poi passi, si chiamano frontiere oggi, quelle libere a casa mia. Il procuratore nazionale antiterrorismo, il dottor Roberti, ha scritto che dai barconi sono arrivati tanti terroristi, l'ha scritto, lo diceva Salvini, era un cretino. Il procuratore antiterrorismo dice che i terroristi arrivare, sono arrivati sui barconi. Sì. Quindi ragazzi, aspettiamo che cosa? A fare due controlli, io chiedo due controlli a Trieste, due controlli al porto di Genova, al porto di Gioia Tauro, al Brenno. Senti, ma dopo le cose che sono uscite, tu sei ancora più sicuro che questa storia di quelli che hanno i conti all'estero sia un complotto anti-Putin? I conti a Panama? Sì, quelli a Panama, sì, certo. Buon per loro se l'hanno fatto legalmente e pagheranno se l'hanno fatto illegalmente. Quello d'accordo, ma è un complotto anti-Putin, secondo te o no? Portare a Panama, però. È un complotto anti-Putin. Io penso che ci sono molti di quelli che mi fanno la morale ai cittadini italiani che poi portano i soldi in giro per il mondo. Tipo chi? E non pagano le tasse in Italia. Tipo chi? Della scelta, basta leggere i nomi che sono usciti. Vabbè, volevo capire un'altra cosa. Secondo te era un complotto tutta questa manovra? Era tutta una manovra anti-Putin con l'America, gli Stati Uniti? No, cioè, non lo so. Non lo so, sicuramente. Senti, che però, fatto il mazzo a Putin per tre giorni perché c'era il violoncellista suo amico, mi sembrava una cosa. Senti, bizzarra. Scusa, però ti voglio chiedere una cosa che riguarda Milano. Alla fine ti sei messo d'accordo con quello che faceva parte del governo Monti. Ha approvato la legge Fornero, ne dicevi, Passera, dicevi peste e corna di Passera, hai fatto l'accordo con lui? Cioè, io continuo a ritenere che sia stato un pessimo ministro. Che magari ma hai alleato fatto tu a Milano? Lavori, ma ha fatto malissimo il ministro. Ha sottoscritto il nostro programma e il nostro candidato e si vede che ha cambiato idea lui. Cosa ti devo dire? Ho capito, tu fai le manifestazioni sotto. Vede che il progetto della Lega per Milano convince perfino uno come Passera, vuol dire che abbiamo un progetto veramente valido. Voglio dire, però tu fai le manifestazioni sotto. Io continuo a pensare che sia stato il governo più disastroso degli ultimi anni, la legge Fornero sia una legge infame, Passera da ministro e quello l'ha approvata. Assolutamente niente. L'ha approvata. L'ha fatta lui, No, ma l'ha approvata come quasi tutto il Parlamento. No, l'ha approvata lui, è uno di quelli l'ha che l'ha approvata come sostanzialmente tutto, ma ai tempi anche Forza Italia votò la legge Fornero. A vincere a Milano oppure non serve a niente sto Passera. Ma non so quanti voti porti, pochi, comunque scelgono i cittadini fortunatamente alla fine. Quello, io penso che sempre, che più dei nomi la gente guardi ai fatti, alla storia, a quello che stiamo facendo. Vabbè. Stamattina ero all'Aquila, a me piacerebbe che Mattarella facesse due passi in giro per Mattarella, le frazioni. Perché adesso se la cos'è che non c'ha bene? Cos'è che non c'ha di buono il Presidente della Repubblica? Che ti ha fatto di male sto Presidente? Non dice ma niente, non sì, dice è bene. Un accidente, non fa niente. Non dice un accidente. Non ha detto niente sul petrolio, non ha detto niente meglio sta zitti che dire cazzate. L'unico gesto di esistenza in vita che fece quando era giudice della Consulta fu di fregare il referendum sulla legge Fornero ai cittadini italiani, unico cenno di esistenza in vita. Poi è proprio il trionfo della retorica dell'inutilità di quella carica. Ma è il tuo presidente o no? Eh? È il tuo presidente? Ma formalmente sì, ma no, non mi ci riconosco assolutamente per nulla. Vabbè, quello non mi rappresenta. Quando va in giro a sparlare di confini non mi rappresenta. A sparlare? Si può parlare così del presidente della Repubblica in un paese? E se ti denunciano? Devo essere arrestato e processato. Se ti denunciano? Ma no. Però è vilipendio del capo dello Stato. Ma che vilipendio? Ma è un reato che fa ridere in un paese che lascia uscire gli stupratori, processate Salvini perché ritiene che Mattarella sia inutile. Sì, ritengo la Presidenza inutile. Della Repubblica sia un ente inutile. Alla Presidenza, facciamoci un parco giochi. Il Quirinale un'azienda di nuove tecnologie al Quirinale. Sì, cioè il Quirinale va cancellato. Ma che funzione ha? Ruspa per il Quirinale. Ma voi vedete Mattarella che comanda le forze armate. Ma è un garante. Perché? Ma è il garante della Costituzione. Ma il garante di che? Ma sta succedendo di tutto in Italia. Niente, in un minuto ha chiuso la Presidenza della Repubblica. Arresti, vabbè, intercettazioni, dimissioni. Ma che cosa garantisce Mattarella? Dai. Sono Mattarella. In un minuto, alle 18:53, abbiamo abolito il Quirinale. Così. È lunedì mattina. Ma guarda, pazzesco. Guarda, se ci pensate, gli italiani sarebbero anche favorevoli. Se devo pensare a quello che ha garantito Napolitano, ovvero sia gli interessi di tutti fuorché degli italiani, ci sarebbe da incazzarsi ancora di più. Ragazzi, ciao. Vabbè. Ciao Salvini, ciao. Salute. Ciao Matteo, ciao. Abbiamo il giornale radio. Io sono un tossico, io sono uno zanzarainomane. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana storie complesse e controverse a Il Falco e il Gabbiano. Ha portato l'allenatore verso un ruolo fondamentale nel calcio, il mago Elenio Herrera. La prima first lady cinese, una delle donne più importanti e influenti del Novecento, Mei Lingzhong. Da Superman a Superuomo, la terribile e meravigliosa storia di Christopher Reeve. La prima donna che trasferì la violenza subita sulle sue tele, Artemisia Gentileschi. L'uomo che fece della sua voce uno strumento musicale, Demetrio Stratos. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Vorrei ricordare all'ottimo Barisoni che a fine mese deve togliere 100 euro dallo stipendio di Parenzo, in quanto ha detto la parola cazzo. Sì, amico mio, il 7 aprile, quando è intervenuto quello che negava l'AIDS, siccome lui dirà, ma non mi ricordo, no, aspetta, ci abbiamo le prove, caro Parenzo, ci abbiamo le prove. Abbiamo tutti un po' di AIDS, volendo, no? Sì, se vogliamo parlare in termini lì, va bene. Sì, no, io non è lui, ma che cazzo dice? Amico mio, cala la 100 euro, pare, cala la 100 euro. Beh, effettivamente è così, eh. Cioè, effettivamente è così. Era in deroga. Sì, credo. Era in deroga, sì. Abbiamo fatto nero prima Salvini su questa storia di Mattarella, no? Della... Ma sì, ma non è possibile che lui in 5 minuti ha abolito il Quirinale. Però dai, aspetta un attimo. Ho appena scritto a Camanei, eh. Ma chi è Camanei? È Camanei. Allora, gli ho scritto Is la Zanzara in your country su Twitter, gli ho scritto per adesso. Vediamo se risponde, cioè Camanei. Ma che gli è scritto? Quello non capisce, è scritto male in inglese. There is Zanzara in your country. Is Zanzara con il nostro hashtag. Ma non ha capito, in inglese, è scritto male in inglese. Guarda, vai a vederlo. Non si scrive così. Al signor Camanei, che stava, ecco qua, vedi. Is Zanzara in your country. Ma non si scrive così. Ma come no? Comunque, abbiamo fatto nero Salvini. In realtà, Salvini, anzi Mattarella, parte dal vino, ma fa una considerazione più generale, cioè prende spunto dal vino, che non deve avere barriere, frontiere, eccetera, eccetera. Però poi dice, beh, questa è la dimostrazione, il fatto che il vino italiano, no, vinca anche grazie all'export e tutto, del fatto che le barriere non ci devono essere, che non ci devono essere le frontiere, eccetera, eccetera. Attenzione però, forse lasciamo perdere il merito, ma forse ha ragione Salvini. Il risultato è stato un successo parimenti nell'export. I numeri che in questa giornata sono già stati ricordati ne sono testimonianza, conferma di come il destino dell'Italia sia legato al superamento delle frontiere e non al loro ripristino. A parte che ogni volta che uno sente Mattarella effettivamente viene un po' di sonno, eh? No, ma cosa c'entra effettivamente questo? Ha un tono di voce diverso dal tuo e parla da persona, da capo di Stato. No, parla in modo razionale. Veramente lento, noioso, Sì, ma non è tutto la Zanzara. No, però, ma non è solo questo, non è solo quello. Non è tutto una salvinata. Ma non è moderno. Dai, sul Presidente della Repubblica deve rappresentare uno Stato e parla in questo modo. Diciamo la verità, dai, su. Perché il Presidente della Repubblica tedesco... Ma no, ma ho capito, fa così. Ma no, ma dai, su. Perché Hollande in Francia cosa fa? Hollande. Ma non è che devi scorreggiare, non devi scorreggiare, devi essere un po' più rapido, veloce, ma moderno. Ma rapido, quello è il Presidente della Contemporaneo, contemporaneo. Non sta facendo una trasmissione radiofonica. Ma ho capito, ma vuoi risentire quella voce, ragazzi? Ma no, diciamo voglio, la verità. Non voglio, alle 19.22 non voglio. Appunto, voglio. Vedi che non vuoi sentire la ma voce. No, ma non voglio perché non c'entra. Ma uno dovrebbe avere una voce squillante, stato. Decisa, chiara, ferma. No, non la voce. Allora? Chi è che fa Mattarella? Non mi ricordo se Mercù fa Mattarella, forse no. Dai. Allora, Claudio da Milano, iniziamo, vai, Claudio. Buonasera, aspetta, io sono napoletano, Spero di non evitare Parenzo, però, perché... Ma figuriamoci, anzi. No, ma tutte le volte che parlo napoletano, sottolinei le cadenze napoletane, sembra che siamo sempre degli ignorantoni che parlano così a bandera. Comunque, vabbè, parla, dai, forza, di quello che devi dire. Anche tu, Cruciani, con i napoletani non mi sembri molto... Vabbè, non ho capito, hai chiamato per dirci che non ti piace quando parliamo di Napoli, guarda, vabbè, chi se ne frega, dai. Aspetta un attimo. No, vi volevo dirvi solamente una cosa, io vivo a Milano, no? E ci vivo da tanti anni, no? Ti posso garantire che non ho mai visto di buon occhio la Lega, ma adesso... Vabbè, allora... No, ti voglio dire che fondamentalmente, cioè, se non la finiscono questa gente di imbrattare, cioè, siamo arrivati proprio al degrado, ma sai, proprio un imbarborimento della, cioè, delle nostre città. Ma chi? Chi? Che cosa? Chi? Questa invasione barbarica di questa gente. L'invasione barbarica di chi? Ma ragazzi, ma dove vivete voi? Cioè, in una ampolla di vetro su super. Ma quale di chi sarebbe questa invasione, Claudio? Chi è che sta invadendo? Allora, io dico una cosa, no? Con tutto il rispetto della povera gente. Pronto? Claudio, di chi è questa invasione barbarica? Ma di che cosa sta parlando sto ragazzotto qua? Non ho capito. Allora, sto parlando di questo, ragazzi. Io tutte le volte che esco di casa, ultimamente, no? O da casa al lavoro, mi viene proprio, sai, mi avvilisco a vedere intorno a me tutto sto degrado. Sì, ma il degrado, ragazzi, di chi? Di cosa? Della città, della città. Ma chi se ne frega? Qui parliamo a tutta Italia. Barboni, c'è in giro, oramai sei qui, non vogliamo dare una regolata a questa situazione. C'è un casino allora, di barboni. Prima di tutto. Io ciao Claudio, ciao. Fabrizio da Roma, vai. Ciao Giuseppe, vai Fabrizio. Buonasera. Dimmi. Guarda, allora io sono un operatore del vino, sono al Vinitaly di Verona. Sì, allora. E volevo segnalare che nella civilissima Verona, sì, noi siamo da tre quarti d'ora in un cazzo di parcheggio delle ferrovie. Insomma, sì, a noi che cosa ce ne frega, scusa? No, volevo segnalare, scusa. Ma ho capito, mica è il traffico questo qua, segnala a quelli del traffico, che ci frega a noi che non riesci per 40 minuti, sei ancora intrappolato al Vinitaly. No, siamo dico, una fiera importante per un settore allora? Vino che è trainante per l'Italia. Vabbè, ma parla con gli organizzatori, non so, trasferiremo questo messaggio, ma noi che tu stai impantanato... Ma ti pare che ci chiama in diretta per dirci sta roba, chi se ne frega, con tutto il rispetto? Scusa, Fabrizio, perché dovrebbe... Parenzo ogni tanto farebbe bene a tacere, viste le stupidaggini che dici questo... No, ma scusi, ma le sembra intelligente usare il servizio pubblico, cioè la nostra radio, in questa emissione in particolare? Vabbè, ma che vuoi dire con questo? Questo è servizio pubblico, la Zanzara è riconosciuta come servizio pubblico. No, l'Italia, scusate, non è una cosa... Perché la state sminuendo? Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Voglio dire che di fronte ci sono migliaia di operatori esteri. Secondo voi all'estero succederebbe una cosa del genere? Tu stai dicendo che è organizzato male. Vabbè, d'accordo, verificheremo, vedremo, eccetera. Vabbè. Fabio D'Alecco, mi posso interessare di quello che succede intorno a Vinitaly? Hai problemi di traffico intorno a Vinitaly? Ma chi se ne frega? Se hanno organizzato male, se la prenderanno in quel posto perché la gente non andrà più l'anno prossimo. No, dai. Fabio D'Alecco, su. Fabio D'Alecco, sì, ecco ragazzi, diciamola la verità, Dio santo. Salvini non ha mai ragione, ma stasera ha ragione. Ma su che cosa? Su Mattarella, che è un mattarello, non si può sentire, dai. No, ma che non si possa sentire, lo dico pure io, c'è bisogno di Salvini. Cioè, ma poi tutti questi presidenti sembrano fatti con lo stampino, sono di una retorica pallosi, che mettessero almeno una figa, quantomeno ci divertiamo e ci rifacciamo anche un po' gli occhi. Però, scusi però, professore, la Presidenza della Repubblica non è una discoteca, il Gilda o il mitico tartarughino di Roma, è la Presidenza della Repubblica, capito? Sarebbe anche per noi italiani, sarebbe un piacere ascoltarla, ok? Cioè, se mi devo ascoltare Mattarella, che è un mattarello, insomma... Vabbè, non ho capito, ma che cosa, qual è il punto? Il punto non è che Salvini non ha mai ragione, ma oggi ha detto una cosa che secondo me è sacrosanta. Cioè? Cioè va chiuso poi... il Quirinale va ma chiuso. Certo, con tutti questi carabinieri, col pennacchio, cosa ce ne facciamo? Ma che non lo so, ma effettivamente cosa sulla questione cosa ce ne facciamo? Sono sulla... le istituzioni. No, però... cosa ce ne facciamo ma di lei anche? Dai, Davide, le istituzioni. Ma cosa ce ne facciamo di sto signore qui? Scusa, ma vuoi mettere? Ma molto meglio. Ma l'ist... ma è un'istituzione. Io sono inutile, come dici tu, ma infatti. No, ma non è inutile, anche lei un'utilità ce l'avrà, evidentemente. Quella di telefonare qui alla radio. Vabbè, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Salute, cara. Grillo e Messina Denaro. Tu pensa il figlio di Matteo Denaro che è con Matteo Denaro Messina Denaro avrà visto la puntata col figlio e gli avrà detto di tutto, gli ha detto scemo, guarda cosa fa quello, tu sei qua che non fai, ma papà ho già dato fuoco alla famiglia Carrara, no, il futuro è il talk show, io non ho più neanche la forza di strozzare un bambino, di pensare a te. Pensa a tutti i figli dei mafiosi, avranno poi gli impresari, vorranno andare tutti i figli dei mafiosi in televisione. Roberto da Modena, vai! Non è male quando fa il comico, però, eh? È stupendo ancora. Vero. Quando fa il comico è ancora eccezionale, Grillo, vai. Pronto? Roberto, ho fatto una considerazione, David, che in realtà a Roma il fatto che la Raggi perda non è possibile. No, cioè, è matematicamente impossibile. Anzi, sembra no, molto in testa, perché c'è il centrodestra diviso. No, ma è logicamente impossibile, perché anche se considera, no? Raggi va al ballottaggio. Ma noi quando facciamo l'endorsement? Aspetta, più avanti. Vabbè. Mancano due mesi ancora. Raggi, poi c'è, va al ballottaggio. Se va al ballottaggio contro la Meloni, metti che la Meloni si. Il centrodestra. Beh, Raggi Giacchetti potrebbe anche essere. Oddio, no? Se aspetta un attimo, se va al ballottaggio contro la Meloni, una buona parte degli elettori del PD voteranno la Raggi. E dunque è praticamente impossibile che vinca la Meloni. Se invece va al ballottaggio con Giacchetti, che al momento sembra la situazione, diciamo, più probabile. E beh, quelli di centrodestra voteranno la Raggi per metterla in quel posto a Renzi. Dunque, secondo me è proprio impossibile, cioè è quasi impossibile, al 99,9% vince. Dovrebbe succedere una catastrofe, cioè, ma non credo sia possibile. Sto piccolo ragionamento è così. Roberto Modena, vai. Ciao, vai, dimmi. Ciao Fabrizio. Niente, volevo soltanto tornare un attimo, due secondi, alla Brambilla quando ha fatto quell'appello di non ammassare i capri. Vabbè, ma ragazzi, ma è passata Pasqua, no, basta con sta roba, dai. Io c'ho un allevamento di capri. Che ti è successo? Per comprare una panda nuova per portare la mia bimba, visto che c'ho solo un doblò io. Sì. C'ho solo un doblò e puntavo nella vendita dei capretti per comprare una panda usata da 4.000 euro. E mi è saltato tutto. Perché ti è saltato tutto? Perché i capretti non sono stati venduti quest'anno. Per colpa di chi? Per colpa dello spot della Brambilla e del direttore del TG5, Clemente Linum, che la domenica prima di Pasqua ha messo in giro questa cosa. Sai che la domenica tutti sono più buoni. Guarda, io non lo so, mi dispiace che tu hai perso... Quanto hai perso? 50? 4.000 euro per comprare la panda, per portare la mia bimba che ha 2 anni, perché visto che sono il doblò, non posso caricare. Se carico mia moglie non posso caricare la mia bimba. E il progetto era quello di prendere una panda usata. E di caricare. Ma Roberto, io ti capisco, hai perso quanto? Ha avuto un calo di quanto? Quasi dell'80%. Allora prenditela adesso, Mimun, prenditela con Mimun. Chiama Mimun. Ma che c'è Mimun? Faceva metà intervista alla Brambilla e metà intervista a un cuoco o un altro che diceva. Forse c'era un po' come scarpa, dai, troppa, volta, dai, troppa, la par condicio, sì, ma ho capito, dai troppa importanza a quello che può uscire fuori da un telegiornale. Però ho capito, io però per un altro anno la mia bimba da Milano la puoi avere su montagna, perché se no la consideri la macchina mio suocero. Come la consideri la Brambilla? Lasciamo perdere. No, dimmi, come la consideri? Una poco di buono. Una poco di buono. Una poco di buono. Fermoli. Sì, ma che palle però, e prima il traffico, e poi la borsa, e poi la pubblicità, e poi il telegiornale, oh, ma noi volevamo sentire la Zanzara, mica ste cazzate. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. I'm a real wild one. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei! 800240024, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393-7171-701. Beh, siamo veramente al top! Allora, caro David, venerdì, durante la puntata di Ciao Darwin, è spuntato che era carne quello contro... Quello di Bonolis. Sì, sì, carne contro spirito. Carne contro spirito. È spuntato un tizio che si chiama Jean-Prince Mendy. È un tizio di 36 anni, 25 centimetri. Di cosa? 25 centimetri che? Di dito. Il dito, il pollice. Che cosa 25 centimetri? Il pollice. Il cazzo! 25 centimetri, mamma amico mia, mio. Mamma mia, ragazzi. 36 ma anni. Ma cosa c'entra con Darwin? No. Con i carnivori? Ciao da Bonolis, prima serata. Prima serata. Ma che c'entra questo con i carnivori? Canale 5, se non sbaglio. Ok. Oh. Sabato. Senti, Jean Prince. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Jean-Prince Mendy. Jean-Prince Mendy. Vabbè. 36 anni, 25 centimetri d'uomo. Ma che cazzo dice? Per tutte le donne del spirito che vogliono provare un nero. E dalle. Il primo nero non torna più indietro. Allora, io sono sempre indeciso, ma questi qua sono veri o finti secondo te? Cioè, secondo te sono veri o finti? Secondo me sono finti, dai. Ma no, magari. Ma sì, è anche molti sono finti, dai. Vero. Sono... Non farei però, diciamo, una commissione parlamentare d'inchiesta per scoprirlo. Questo non lo farei. Come fai a sapere che sono veri? Cioè, non c'è la dimostrazione, no? In questo caso. Beh, vale anche il contrario, però. Sì, ma ho capito, ma non c'è la dimostrazione del contrario, per cui è tutta una cosa... No, io vado sempre in buona fede, dico, come sono veri purtroppo Mauro da Mantova, Donato da Varese, cioè questa gentaglia... Anche Jean-Prince. Beh, questi teppisti, questa gentaglia che chiama, chiaramente è drammaticamente hai vera, dato lo del dico... teppista Mauro da Mantova, del teppista. Beh, è la cosa più bella che gli ho detto negli ultimi 3 anni di Zanzara, credo. Allora andiamo a Salerno, Emilio, vai. Emilio Salerno. Andiamo a Salerno. Ciao, vai. Pronto? Dimmi. Sì. Ciao. No, ti volevo chiedere sul fatto di Mattarella, no, perché praticamente volevo sapere come la pensi tu sul fatto che questo qua non si esprime mai è una polemica, mai una cosa... Cioè, abbiamo lasciato Napolitano che interveniva. Ma non è Mughini, ma che vuol dire che il Presidente della Repubblica non fa mai una polemica? Ma ragazzi, ma di cosa parlate? Fa polemiche, dice, non è Mughini, però non è Auriemma, dice, no, Presidente della Repubblica non è che deve fare polemiche, lo so, però non è Bargigia, ma Napolitano picchiava, Napolitano stava, non è che faceva polemica, no, però a lui piaceva Napolitano militante un po' più, lei, diciamo, semmai che si esponeva. Dice Cossiga, semmai era uno con una identità. Vabbè, Emilio, che cosa vuoi dire, che è inutile il Presidente della Repubblica? È inutile. Questo qua sì, francamente sì. Non lo cioè, è trasparente, mai è inutile, di... trasparente, una mummia, come si dice, la mummia palermitana, come dice D'Agostino, la mummia guarda, pure, siciliana. Guarda, pure tu fai tante provocazioni, sei un grande, sei, perché, cioè, vabbè, ho capito, io mica... uno con questo spirito qua. Allora, amico mio, allora, il Presidente della Repubblica è un'altra cosa, non posso fare io il Presidente della Repubblica, scusa. Però capisco che a Emilio piacerebbe un po' più di spirito, un po' più di qualche faccia diversa ogni tanto, qualche frase un po' più giovanile, qualche ritmo quando parla. Uno... Parla Mattarella, diciamo la verità, ti si ammosciano i coglioni, diciamola tutta, diciamola in maniera chiara, come piace a quelli che ci stanno ascoltando. Quando senti Mattarella ti fai due coglioni così, ma lo dico con grande rispetto. Quello dice Mammaro Carmine, anch'io dico, io non lo dico Mammaro Carmine, però è chiaro che è quella la cosa. Parenzo, tu saresti in grado di seguire per un'ora un discorso di Mattarella? Diciamo la verità. Per un'ora? Ma cosa vuol dire? Non sei in grado di seguire per un'ora un discorso di Mattarella? Ho sentito i discorsi di routine, no? Quelli che vengono fatti nelle occasioni importanti. Però, ma dopo vabbè, di che, perché dai, devo seguire il discorso di Mattarella? No, ma io capisco l'ascoltatore che ma dice, neanche Mattarella quanto ascolta spendiamo per avere il signor Mattarella? Cioè, quanto spendiamo? Ma cosa vuol dire quanto spendiamo per avere te anche? Ma che vuol dire? Servi anche tu, mica purtroppo. Paga, anche Emilio, noi no? Serviamo. Emilio, che dici tu? No, perché giustamente quando c'era Monti Presidente del Consiglio, se stava pure lui Presidente della Repubblica, erano tutti e due una accoppiata vincente. Mamma mia, che era? Un telegiornale si poteva... Sì, ma le istituzioni non devono fare ascolto, però, e polemiche. Ho capito, scusi, ma non è che possiamo mettere a Badantuono Presidente della Repubblica. Guarda che scusi, incredibile. Sì, a Badantuono, no, dai, forza. Devono avere un po' di verbo, una cosa, un intervento. Vabbè, perché le fanno le stronzate, questi parlamentari, queste cose. Questo non dice una parola. Pure sullo scandalo che è successo, quale scandalo? Non dice A questo, non dice neanche B, tu dici non è una mummia, la mummia siciliana, però ho capito, però Presidente della Repubblica, vabbè, ciao. Allora, noi per carità pestiamo merda di continuo, no? Però adesso vi faccio sentire la signora Celentano. Io non ce l'ho con Rosita Celentano, figuriamoci, ho fatto tante battaglie televisive in queste settimane con lei. Però ti faccio questo, ascoltare, sì, questa cosa, sentiamo. Davide, che viene dalla trasmissione solita che noi prendiamo spesso di mira, che è quella sugli animali, no? Sì, quella del mondo visto dal cane, chiedimi se sono felice. Sì, esatto, trasmissione molto bella, bella trasmissione. Un po' lungo come titolo, diciamo. No, no, bellissimo, chiedimi se sono felice, già finita la puntata, ma bella, chiedimi se sono felice. No, però c'è un'altra, c'è un sottotitolo. Sì, anche. Il mondo visto dagli animali. Appunto, non lo sai dire, è troppo lungo come titolo, no? Bastava no, dire animali, animali, no? Beh, no, così è valido. Siamo tutti... Ma avranno il diritto anche loro, sì, di bene, scegliere il titolo della trasmissione che allora, vogliono. Senti questa, senti questa cosa qua, che è molto interessante. Sentiamo, molto interessante. Dai. Qualcuno del mondo, diciamo, dell'handicap potrebbe prendersela assai con la signora Celentano, sentiamo. E cosa succede ad un cavallo quando nasce? In poche ore è già in piedi. Sì, certo. No? Sai quei filmati, sì, che vediamo, sì, anche nel National Geographic con le gazzelle che nascono dopo poche ore sono già in piedi, sì, perché, sì, devono provvedere. Ecco, un bambino non sa farlo questo, un bambino è in piedi ed è in grado di camminare dopo anni, mesi, sì, diciamo mesi, però dice, comincia a camminare sulle sue gambine dopo un anno e mezzo, zampe, sì. Poi ci sono quelle ritardate, anni, che a tre anni non camminano ancora. Vabbè, non è che... Ma ti rendi conto o no? Sì, no, ma in realtà voleva dire un'altra cosa. Tu dici che voleva dire un'altra cosa? No, in realtà dice che, voleva che dire? L'animale, cioè, voleva dire i ritardati che a tre anni non camminano. Tra gli uomini esistono. Gli è un po' scivolata, dai. Beh, ho capito, ma per come la metti? Cioè, no, o c'è qualcosa che non sappiamo, oppure dice, a parte che pensare al fatto che gli animali camminano subito e gli esseri umani no, come superiorità degli animali, credo, comunque come una cosa che avvicina gli animali, anzi in questo caso sono superiori, sì, agli, sì, esseri umani, è una cosa che è talmente ridicola che non la voglio nemmeno, cioè non la voglio nemmeno commentare, perché lasciamo, appunto per questo, no, c'è una grande differenza tra esseri umani ed animali, è una delle cose per cui, no, esseri umani ed animali sono due cose diverse. Ma dunque, lei dice ci sono ritardati che a tre anni non camminano, e allora? Cioè, come volesse dire, beh, per no, come dire, nella specie umana, nella ci specie sono anche umana, ritardati che tra cosa che tra gli animali non esiste. Ho capito, amica mia. Cioè, come però dire, non esistono gli animali ritardati, come tra gli esseri umani. Con problemi, diciamo, in generale. Mi sembra di aver capito così, poi sai. Claudio da Roma, vai. Allora, buonasera, io volevo dirvi che ho il mio ufficio a Piazza Mancini a Roma, sì, che è un posto molto bello, che è proprio di fronte al Foritarico, sì, se non che lì ormai sono diversi anni che ci saranno una ventina di extracomunitari o comunque, sì, gente senza lavoro, che non, sì, ho nulla contro di loro assolutamente, e i quali stazionano la mattina presto, si ubriacano, fanno le loro cose lì senza andare, vabbè, nei bagni, amico mio, però questo qua è un piccolo problema di ordine pubblico. Lo segnali a Radio Padania, questo va, sì, che no, loro si divertono. Lo segnali, lo segnali, no, a Radio Padania. Io guardi, sono di sinistra, ci mancherebbe. Ma però che succede? No, va benissimo, segnali a Radio Padania. Ma però ha ragione l'ascoltatore, cioè, siccome abita là, credo, no, Claudio? Sì, noi abbiamo lo studio lì, eccetera. Cioè, ti dà fastidio lì, che cosa? Allora, pisciano, che fanno? Cioè, la questione è questa: se uno chiama i carabinieri, che cosa dico? Prima cosa bisogna dire il proprio nome, e quindi poi uno deve segnalare, e quindi eventualmente uno viene chiamato a testimoniare. Ma testimoniare di che? Quelli sono ubriachi, non è che sono, esatto, testimoniare che cosa? Comunque, vabbè. Appunto, E poi l'altra questione è che loro non vogliono identificare queste persone, perché dice, riportiamo al comando o in questura, ci vogliono 6-7 ore per identificarli, perché è molto più facile identificare un rapinatore italiano piuttosto che un extracomunitario, perché questi qua non hanno mai documenti e gli creano tantissimi problemi. Ma questi che, quindi, fanno concretamente, al di là di ubriacarsi, che fanno? Non fanno niente, stanno lì, però pisciano, rubano, molestano, esatto, che fanno? No, fanno atti osceni pubblico, perché chiaramente fanno le loro cose lì, poveretti. Quindi bisognerebbe trovare il sistema per reinserirli socialmente, fare qualcosa, e quindi, cioè, è demagogia quelli che dicono. E poi si vive male, perché ormai lì praticamente se una coppia di ragazzi lì c'è pure. Però adesso, francamente, per carità, lei è preoccupato, però segnali la cosa, l'ha già fatto probabilmente alla polizia locale, eccetera eccetera, e vabbè, che devo fare? Effettivamente a me la sporcizia nelle città mi dà fastidio. Un sindaco, la prima cosa che dovrebbe fare è il decoro urbano, mettere a posto. Però i barboni sono sempre esistiti, esisteranno sempre, non è, le città tutte pulite, forse a Singapore, in questi posti qua un po' dove c'è il pugno di ferro. Io vorrei una città tutta pulita, senza nulla, senza graffiti, senza, no, senza scritte sui muri. Però è quasi impossibile, diciamo, avere il controllo capillare di una città. Poi sta ad ognuno di noi, no, non sporcare, soprattutto. No, lei sporca qualcosa, butta le sigarette per terra, Claudio. Io evito di farlo, se posso, ecco, devo lei fuma? Guardi, io ho trovato il banco, ma i soldi che uscivano ho riconsegnato al cassiere dalla banca. Io, per esempio, ogni tanto, Parenzo, il mezzo sigaro lo butto per terra, un po' mi pento. Male? Ogni tanto sì, in automatico. Ma tu fai anche di peggio, che tu fumi e poi lo appoggi ai bordi delle strade, eccetera. Poi torni a prenderlo. Hai ragione. Sì, sì, questa sì, è una porcheria assoluta. Lo lasci alla radio. Vuoi lo denunziare fumi fuori. Questa cosa? Non ho capito. Vuoi denunziare? Dire, adesso in diretta radiofonica, ma tu fai questa porcheria, fumi tutto con la saliva, eh? Poi non lo butti, lo appoggi su un muretto, sì, un muretto, sul muretto, sì, ogni tanto, fai sì la radio, scendi giù e lo riprendi. Succede una anche porcheria questo, assoluta. Allora, caro Parenzo, io proverei a chiamare il vecchio Zampa. Ne ha combinato un'altra delle sue, ha cacciato un altro allenatore. Ancora? Sì, sì, ne ha cacciato un altro. Il signor Novellino, durato 4 giornate, credo, se non sbaglio. Alcuni dicono che siamo a 9 in tutto, non so quanti esoneri perché è un casino. Comunque, ha cambiato 8-9 allenatori in tutto, tra primo, secondo allenatore, eccetera. Io ho la classica telefonatina da Zanzara a Zamparini, che ci sta tutta oggi, eh. Ecco, era un po' incazzato, non lo sentivo da un po' di tempo, da qualche settimana, quando lo chiamammo, diede del deficiente a Iachini. Vediamo un po' il vecchio Zampa che dice. Pronto? Maurizio? Yeah. Sono Cruciani. Oh, ciao Cruciani, ciao Carlo. Ma come mai sei arrivato a questa decisione di mandare via Novellino? Non ho ancora deciso al 100%, al 99%. Perché in 4 partite ha fatto un punto e ieri sera il Palermo era inguardabile. Inguardabile proprio? Prova a sentire chi ha visto la partita. C'è ancora possibilità che resti Novellino? Ma pochissime, direi, ok. Ma Ballardini, perché ancora Ballardini non ha accettato? No, stiamo trattando, vediamo un momentino. Sono io che ancora non ho la mente chiara al 100%, per cui vediamo un momentino. Senti, ma che è successo quest'anno? Non ho capito, ma hai veramente paura di andare in Serie B? Ma io sono già con un piede in Serie B, perché la nostra squadra non è costruita per salvarsi. E quando non è la mentalità, io ci sono già andato una volta con Dybala, con Ilicic, hai capito? Sì, sì. Non è una squadra abituata a combattere come il Cardi, come il Frosinone. Cioè, ti senti in Serie B? Io sarò tutta la settimana con la squadra, vedendo di tirare fuori l'orgoglio e il combattimento. Perché... Scusa, ma perché non ci vai te in panchina? Scusa, adesso, a parte gli scherzi. Io non sono capace di andare in panchina, non è il mio lavoro, assolutamente. No, okay, ma ne hai cambiati 8-9 quest'anno, cioè è anche colpa ma tua. Io non li ho cambiati, sono andati via in 3. Io ne ho cambiato uno, Ballardini. Poi sono andati via Ballardini, che si è fatto esonerare dal portiere, un casino che ha combinato. Sì. Poi Schelotto è andato al Boca e non l'ho mandato via. Ho capito, però gli altri li hai cambiati, pure quello l'hai esonerato, quell'altro pure l'hai esonerato. Ho esonerato solo Iachini. Quest'anno io allontanandole uno, ne ho cambiati 5. Non è bello però, cioè, No, è bruttissimo. Non, cioè, se andate in B, quanto è colpa tua? 100%? No, perché io sono stato vittima di questa situazione, non lo vuoi capire. Se 3 allenatori vanno via e io non li mando via, vuol dire che c'è stato un fatto di circostanze che... ho capito. E poi andare in B non è mica la fine del mondo. Tutte le squadre, tutti gli anni 3 squadre vanno in Serie B, sì. Verona va in Serie B dignitosamente. Sì. Non è mica la fine del mondo. Beccano i soldi, beccate i soldi, tra l'altro. L'altra volta ci ho rimesso 30 milioni per fare la Serie B. Adesso c'è un paracadute importante che naturalmente ci permetterà di non perdere più di tanto. Appunto, dico. Però, stai tranquillo, noi non andiamo in Serie B. Hai detto che c'è un piede in B. Ho detto che c'è un piede in B, bisogna parlarmo di ieri sera, e 3 piedi in B. Ma sapendo la potenzialità del Palermo... Senti, ma se vai in Serie B che fai? Vendi? Ma che c'entra? Vendo anche se rimango in Serie A. Al 100% vendi, al 100%. Le palle. Se riesco. E se non riesco non farò il presidente io, di sicuro. Vabbè, metti Cruciani presidente del Palermo, lo voglio magari, vedere. Cruciani lo prenderei domani mattina. Ma molti dicono che tu hai quasi perso la testa, hai sbroccato. Cioè oggi proprio... Hanno sbroccato loro, Zamparini non perde la testa. Ma no, ho sbroccato, quest'anno sono stato vittima, io quest'anno ho esonerato un allenatore solo. Tu dici alla fine tutta la stampa è una mistificazione, io alla fine non ho cacciato... Non è la mistificazione, è fare scoop, è fare il vostro lavoro, voi lo fate bene, fatelo così. E a me non me ne frega un cavolo, fatelo così, ma sono bugie. Sono bugie, solo bugie. Ma no, sto Novellino, che c'ha che... perché non funziona? Non so, ha fatto 4 partite, ha fatto un punto. Ho capito, tu dici... Le ultime 2 partite ha preso 6 gol, ha fatto 0 punti. No, funziona. Non funziona, dai, hai preso uno che ormai non funziona più, dai. Ma non è facile, io a Novellino voglio bene, è stato il mio allenatore che mi ha portato a Venezia in Serie A. Appunto, però... Siamo arrivati, erano 20 anni fa, 25 anni fa. Appunto, lui è diventato come allenatore probabilmente un po' attempato, come lo sono io come presidente, però io purtroppo non riesco a esonerarmi. Se vuoi venire a fare il presidente tu mi esonero subito. Ecco, perché non ti esoneri da solo? Ti manca solo ti esoneri. E chi ci metto? A Palermo hai visto che casino che hanno fatto i tifosi? Dio qualcosa ai tifosi, no? Mandali a quel paese, violenti. Allora, quelli non sono i tifosi del Palermo, quelli sono 200 di un certo settore del Palermo politicizzato che non c'era quando sono arrivato io. È uno scontro che hanno fatto ieri in centro Palermo, non era per il calcio ma per la politica, perché quelli di Palermo mi sembra che siano di sinistra e quelli della Lazio mi sembra che siano di destra, così almeno ha detto la Digos e la Questura. Cioè tu, secondo te, questi qua che hanno fatto gli scontri al centro non c'entrano niente col calcio? Beh sì, e in vano del calcio, ma era una lotta di due fazioni politiche, uno di sinistra e uno di destra. Ma perché non la fai chiudere? Per dare una dimostrazione, fai chiudere quella curva la prossima volta. Spero che il prefetto la chiuda. Speri che il prefetto chiuda la curva. Bravo. Cioè, o a porte chiuse, o speri di giocare a porte chiuse. No, chiuda quella curva lì dove sono questi esercitati, stop. Va bene, ciao Maurizio, ciao. Io lo spero, faccio un appello che la chiudano, ok? Ciao Maurizio, ciao. Beh, amico mio, Zamparini ancora una volta ha colpito ancora, si potrebbe dire, no? Cioè, sempre. Siamo vuole alla presidenza del Palermo, lì ad allenare mi vuole alla presidenza del Palermo. Forse te mollerei tutto e mi trasfererei lì a governare quella l'uomo squadra. Di Zamparini. Non so quanto posso durare. Quanto posso durare? Un'ora. Con Zamparini. Atterri, già perdi le valigie e già lì impazzisci, perché le valigie, dottore, non sanno dove sono le valigie, e già da lì cominci a impazzire tu. Adesso stai dicendo che all'aeroporto di Palermo non sono capaci che lo dicesi, di gestire le valigie, non ho capito. No, invece sì, l'ho detto come battuta, in realtà lo gestiscono meglio a Palermo che non a Roma Fiumicino. Ecco, quello sicuro, quello non è difficile. No, guarda, scientifico, 10 volte. Non è difficile però, quello. Sì, però no, invece a Palermo tutte le volte che sono atterrato sono stato puntuale e le valigie me le hanno restituite intere. Non sempre ciò è avvenuto nell'aeroporto della Urbe. Certo che cambia più allenatore Zamparini che Cruciani le mutande. La Zanzara. Sarei curioso di sapere se quei dementi di nazi vegani, quando si ritrovano in ospedale magari in pericolo di vita, accettano di essere curati con medicinali sperimentati su animali, oppure magari si lasciano morire. Ormai per fare i soldi ne pensano veramente di tutti i colori, caro Parenzo. C'è un dietologo americano un professore di epidemiologia genetica a Londra, un tale che si chiama Spector, il quale dice che si può in realtà dimagrire. Lo sai con che cosa? È come il nostro amico Lemme dice che si possono mangiare i bomboloni alla crema. Lo ricordi, no? Bomboloni però fatti da lui. La mattina, no? La pasta asciutta poi anche. Sì, la pasta asciutta, i bomboloni alla crema. Condita, cose molto grasse. Cioè più grasso per dimagrire. Questo tizio dice che si può mangiare tranquillamente cioccolato, cioè vuoi dimagrire cioccolato, vino rosso e formaggio. Ti giuro, altro che sport, conteggio calorie... Ma ci vogliono i batteri intestinali, cioè formaggio, cioccolato e vino rosso. E anche così, per aggiungere qualcosa, noci, caffè e prodotti lattiero caseari, ragazzi, dai, su. Dice, il formaggio crudo è una delle cose migliori da mangiare perché è una fonte ricca di microbi, sani e funghi. Alcuni alimenti come l'olio, le noci e i semi agiscono come fertilizzanti per i microbi. Vabbè ragazzi, io non capisco più un cazzo, perché poi qui ci sono le teorie più disparate, però ho rivisto Lemme in televisione, l'amico Lemme in televisione. Ma Lemme, esattamente, oltre a odiare le donne, cosa fa? Lemme ha, come sai, una Lemme, specie di accademia della dimagrimento. Ma Lemme è un nome di battaglia, immagino, come no, Batman, ma Robin. No, ma stai scherzando, signor Lemme, numero uno. Ma Lemme veramente? Sai, tu sai che sarà Lemme... un nome di battaglia, Giuseppe Cruciani, detto Crux, non pratica, si chiamerà. Pratica il sesso del Tao, il sesso taoista, no? Cioè praticamente non vieni mai. Ma che roba è? Grande resistenza, ma non viene l'ambiente. Senti cosa dice sulla bulimia, senti. Cosa volevi dire? Che la bulimia non è un problema psicologico, ma è uno squilibrio ormonale. E vabbè, fino a qua. Senti che cos'è il Ristolemme. È una sorta di ristorante dove si vendono dei prodotti. Che è lemme confezione. È Ristolemme. È un Ristolemme? Esatto. Penso. L'oasi del ciccione. L'oasi del ciccione. Esatto. E ne aprirò uno per ogni città d'Italia. Il Ristolemme, l'oasi del ciccione. Beh, è straordinario, eh. Poi il solito litigio con obese barra ciccione, ecco, appunto, eccetera, solito, eccetera. Signora Villa, questa volta Villa, Lemme contro Villa. Senti, poi anche pesante, eh. Come la trovi fisicamente? L'hai vista? Leggermente sovrappeso. Come? Ok, grazie. Ma, no, ma sta bene, dimagrita un sacco, sta bene. Ma guarda che braccia da contadina che ha. Guardate che braccia da contadina. Ma l'ho capito. Non ci credo. Nulla togliere il contadino. Ragazzi, no, a me ha guardato Guantaracchio. No, ma a me io non ho parole. Ha guardato Guantaracchio, lei. Ha detto... Oh, io ho mia madre che è morta di tumore, ma vieni via la pizza a lei, ha capito? Della madre, se mi conosceva forse era anche ha capito? Ma, conosce... sa, no, guarda, ma mamma sta a capa, ferma, io, sa? Ma no, lei è uno stronzo! Hai ragione! Era viva mia madre, se c'era lui non gli tirava la scarpa, perdona, zozzone! Lei è uno zozzone! Io non gli faccio niente! Per favore! Io non gli faccio niente a quel testa di cavolo! Ma gli devo dire una cosa! Smettila! Lei, no, mi fai avvicinare a sto stronzo! Per favore, ehi! Lemme, signor Lemme, effettivamente ha detto tua madre è morta di tumore, se mi conosceva era viva, dai. Dove andiamo? Andiamo a Patrizio, Roma, vai. Patrizio, dimmi. Pronto? Sì. Buonasera. Dimmi, siamo per protestare contro la guasconata che avete fatto, mandando in onda quel tizio che sosteneva di fare il grande cacciatore e ammazzare con il fucile l'elefante. Sì, se ottimo, uno mangi ottimo la carne, come dite voi, va bene, è tollerabile, sì, è un retaggio storico del cannibalismo che c'è stato. Retaggio storico del cannibalismo. È semplicemente ridicola. Sì, sì. E vabbè, un grande cacciatore quando ucciderà un orso con le mani. Gli animali si uccidono anche con i fucili, amico mio. Non si affrontano a viso aperto così, a mani nude. Un grande cacciatore lo affronterebbe a mani nude. Ma non allora siamo mica vantare, in mezzo... Certo, col fucile è facile per tutti, no? Si ammazzano anche gli uomini. Beh, ma anche infatti il cacciatore, sono grandi cacciatori. Infatti il cacciatore parte avvantaggiato nei confronti dell'animale perché ha il fucile, certo, non c'è dubbio. Come? Ma chi ha mai detto che la caccia è qualcosa che si deve affrontare alla pari, cioè a parità di condizioni? Nessuno l'ha mai sostenuto, altrimenti non è caccia, è un'altra cosa. E comunque ma non è condizione vigliacca, scusa, così Patrizio, queste guasconate ridicole. Vabbè, saranno pure guasconate. Che poi mangi la carne, che voi mangiate i capretti, è un retaggio della Chiesa, una cosa sì insopportabile di tutte le religioni. Sì. Tutte le religioni celebravano la morte. Guardi degli animali da offrire agli dèi, ed è un discorso orribile. Vabbè, d'accordo, nato dalle religioni che sono altrettanto orribili. Ma che siano orribili, questo lo dico anch'io, però che allora su questo magari non in questo caso. Però Patrizio, scusa un attimo, io non capisco perché tu insisti nel dire che uno deve un cacciatore dovrebbe affrontare senza armi, praticamente con le mani nude, un perché un, allora è un anima cacciatore. Ma no, è un coglione se va senza pistola o senza fucile. È un coglione se affronti un leone senza fucile, sei un pazzo, non ci puoi andare. Beh, certo. Ma di che stiamo... E se affronti un elefante che non ti ha fatto nulla, è un animale fra l'altro intelligentissimo. Sì, ma allora non è allora è suicidio, uomo, allora è suicidio. Allora è tentativo di suicidio. A sostenere che l'animale è diverso, l'animale fa i cuccioli come le donne, ha le sensazioni, la sensibilità, sogna, mangia, caga, scopa, esattamente come facciamo noi. Vabbè, allora, ma mettiamo che provi delle sensazioni, eccetera. Dunque, che cosa le vogliamo prova, fare? Le prova. Sì, prova ma e allora dolore, prova non mi piace l'idea che qualcuno si vanti di aver provocato dolore. Va bene, il vecchio discorso che abbiamo già fatto mille volte. Io parto dal presupposto, lo ripeto per l'ennesima volta, che c'è una differenza radicale tra uomo e animale, punto e basta. E l'animale, allora, nella gran parte dei casi, ha le nostre dipendenze. Quello che dici, Cruciani, è vero. È vero. Ma è tanto vero che tutta una falsità della medicina nasce dalla sperimentazione animale. Non sono esattamente uguali. Vabbè. Su questo si è creata una... uccidendo animali si è creata una falsità enorme. La metà degli studi, parla uno che li ha fatti, sono da buttare perché l'animale non è l'uomo. Adesso ce lo si dici è creata un'industria, una falsità su questo. Adesso ce lo dici tu. Va bene. Marco da Roma, vai Marco. Marco. Ciao Cruciani, premesso che sempre viva le due Sicilie e Sud libero dagli stronzi leghisti o dagli stronzi razzisti. No, viva le due Sicilie, che cosa vuol dire viva le due Sicilie? Non esistono più le due Sicilie, è roba vecchia, che sei uno ma di quelli... Ma lo dici te, caro Cruciani, lo dici te che non esiste. Questo non esiste, lei è rimasto fermo nelle cartine geografiche dell'Ottocento, probabilmente. No, no, no, no, caro mio, altrimenti Israele non sarebbe esistito se non da 2000 anni. Vabbè, a cosa mi vuoi dire? Chiama perché? Oggi, 2016. Innanzitutto, che sono felice di sentirti per dirti sempre quanto hai rotto il cazzo nei sì. confronti dei meridionali tutti. Aveva ragione te, il radioascoltatore di prima, che diceva appena chiamo un napoletano, un barese, un palermitano. Vabbè Marco, ma adesso non stiamo parlando... No. La battutina, l'ironia sull'accento, a far passare sempre poi? I nostri accenti. E poi, detto questo, voglio dirti, io sono assolutamente d'accordo con te nel dirti... Cosa? Che un animale non è un essere umano. Vabbè, questo lo sappiamo. Marco, non hai un cazzo da dire. Dai, Tina da Milano, vai, Tina. Tina. Pronto? Dimmi, Tina, dimmi. Eccomi. Io volevo contestare a Parenzo sempre quella difesa strenua che fa del Presidente della Repubblica. Mattarella, anzi, Mattarella. Diciamo che la maggior parte degli italiani non si accorgono nemmeno di averlo. Sì? Ecco. Tina sì, da Milano. Scusi, in Tina effetti, da Milano. Abbiamo una mummia al posto del presidente, sì. messo lì dal Fiorentino. Lei forse ha confuso questa radio? Lei forse come te le canta? Come lei te forse le canta. Ha confuso il numero verde 800 24 0024 come numero verde della Padania? E invece questa qua è la radio della Confindustria. Capito, cara? Ecco. Caro Parenzo, io tanto che non intervento perché è diventato un po' troppo trash per i miei gusti. Sì, ma è trash, lei è diventato molto trash, poi dice Mattarella è una mummia, poi dice Mattarella è una mummia. Esatto. Però io volevo solo dire una cosa, che dimmi. Ecco, un certo Montanelli, un bel po' di anni fa, quando era direttore del giornale, sì, ma cosa aveva adesso? Scritto nel suo editoriale al suo caro amico Zelio Ciampi nel primo vabbè, mandato. Ragazzi, però sentiamo, veramente qui non è, ma non è l'ospizio qua, è roba vecchia, morta, dai. No, no, no. A proposito del Quirinale, della Casa Bianca, dove Mattarella ci ha appena stato, e io mi chiedevo in quei giorni, dico, lasciando la Casa Bianca, se lo si vergognava guardandosi, voltandosi magari indietro, di abitare al Quirinale. Dico, un lusso sfrenato che non ci possiamo permettere, perché il Quirinale degli italiani sì. dovrebbe essere lasciato libero, dovrebbe diventare libero. Museo, dovrebbe essere... Quindi renderebbe anche molto di più, e quindi ci renderemmo anche molto meno ridicole agli occhi del mondo. Non è del tutto sbagliato. Gennaro da Monza, Gennaro da Monza, vai Gennaro. Va bene, abolite la presidenza. Ciao, buonasera. Dimmi. Niente, mi allaccio al discorso che il Presidente della Repubblica comunque non vale niente, cioè lo teniamo solo sulla coppa a livello di spese sì. e ci costa 300 milioni l'anno. Ecco, non so se gli italiani lo sanno. Non so se i conti siano giusti. Cioè, no, i conti poco più poco meno, ma lui cosa cambia? Cioè tu dici, è totalmente inutile. È totalmente inutile. Ci sono residenze che comunque lui occupa, che nemmeno sa dove sono, e sono degli italiani che non possono... diciamo così, anche le scolaresche, diciamo le scuole che possono andare a fare, diciamo, gite culturali in queste residenze italiane che abbiamo noi sparsi in tutto il territorio italiano e non le conosciamo. Cioè, perché? Perché sono residenze del Presidente della Repubblica. Vengono comunque... Cioè tu dici per quanto ci costa, per quanto ci costa Mattarella, meglio fare fuori tutto, meglio chiudere bottega, baracche, burattini, tutto. Ma non fare però fuori diciamo tutto. La verità, Parenzo, la realtà è molto semplice. Che, sì, a parte che la struttura si è già snellita molto, come sai perché già napoletano... Ma è napoletano è questo che abbiamo napolitano, noi. Napoletano, scusami. Fermo lì. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. We'll be right back. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Comunque guarda che questa storia dei grilli secchi che Grillo ha dato a due deputati, Bono e Airola, una stupidaggine, cioè, a un consigliere regionale, Bono e al senatore Airola, poi la voleva dare pure all'Appendino che è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Torino, però dice che sta allattando e dunque non può, bah. Perché se uno allatta non può mangiare i grilli secchi, non ho capito. Beh, non mi sembra, non credo che sia un, come dire, no, un cibo adatto. No. Esci da questo corpo. Riti iniziatici blasfemi a Torino dal sacerdote del Movimento 5 Stelle. Questa è una del Partito Democratico, mi sembra, la tua amica Alessia Rotta, là, dai, ma che puttanata. Mia eh? Amica, la ma è un gioco, dai. Responsabile della comunicazione. Riti iniziatici blasfemi, ma qual è la blasfemia? Non ho capito, fare no, finta. No, non c'è blasfemia, c'è solo stupidaggine e prendere in giro la religione. Ma è solo prendere in giro, dopodiché, la religione. Dopodiché, ma a me non me ne frega nulla perché come sai sono di un altro partito, ma di un'altra parrocchia. Ma che c'entra? Parrocchia. Dopodiché quel comico lì può fare quello che gli pare, perché tanto è un comico. Allora, non è un leader politico, questo ormai è chiaro, no? Ma questo mi pare evidente che non è una setta politico. Pericolosa, dice che ma dice no, Esposito, l'amico setta, Esposito, ma no, dai ragazzi, dai. Fa un po' impressione, ma è un gioco, dai. Io farei risentire però, eh. Ora qui abbiamo il grillo caramellato. Questa è una cosa un po' mi mangio da solo, un po'. Non è male. Ora voglio vedere se qua c'è un grillino di quelli veri. Alzati. Sei pronto a ricevere il mio corpo? Traffico, veio chi là, vero chi... La Zanzara. Allora, ci sono i grilli, caro Parenzo, adesso andando sulle cose serie, no? I grilli tostati e salati, che sono veramente, dicono, un ottimo snack. Allora, gli ingredienti sono grilli secondo quantità, sale e spezie. Come si fanno i grilli tostati? Scaldare il forno a 200 gradi, disporre i grilli già puliti sulla teglia in modo che non si tocchino tra di loro. Non si devono toccare tra di loro. Cospargete i grilli con il sale. Grilli. Non lo so, no, credo di no. A piacere potete aggiungere spezie ed erbe tritate. Abbassare la temperatura del forno. Fare tostare i grilli per un'ora. Ogni tanto dare una controllata ai vostri grilli. Devono diventare dorati e croccanti i grilli. Tirate fuori i grilli dal forno, lasciateli raffreddare. Alcuni dicono staccare antenne e zampette. Serviti in una scodella, via i grilli. Perché per esempio gli animalisti non se la prendono con Grillo, che distribuisce i grilli, no? I grilli, fa mangiare, sì, i grilli. No, interessante. Perché non se la prendono con Grillo? Attaccassero Grillo, che i grilli sono meno, no? Sono meno preziosi, meno, sì, sì, no, importanti, giusto. Degli agnelli. Scatenali. Sono degliali meno importanti su Grillo, bravo. Sono degliali. Meno importanti degli agnelli, sono meno importanti dei conigli, i grilli. Cosa t'hanno fatti i grilli? Quanto hai bevuto, Oliviero, dal Vinitaly, Toscani? No, quanto hai bevuto? No, ho fatto bere i Veneti. No, secondo me tu hai allora, bevuto. Senti, no, ascolta. Dimmi. Allora, questo Vinitaly... Come stai, caro? Sai che è la storia. Stamattina dico, non è possibile, per andare al Vinitaly, che è una cosa importante e anche sì, bella, sì, ci vuole 3 ore per arrivare in fiera. Sì, mi hanno detto, uno mi ha chiamato e dice ma che è un bordello. È un bordello, è un bordello. Poi ci vogliono 3 ore per uscire. Sì. Cioè, sono ancora in macchina... Sono uscito alle 6. No, veramente? Sei uscito alle 6 no, e no, con è i bagni. Così, è così. Ma perché? Dicono, Perché non sono organizzate, ma è troppo grande per una città così. Cioè bisognerebbe farlo da un'altra parte, però non a Verona. Portarla a Milano almeno. Basta, no, Milano, sì. A Milano ci sono gli aeroporti, è comodo, si arriva. Beh, anche c'è lì c'è l'aeroporto. Sì, vabbè, ma dai, di provincia. C'è la metropolitana che arriva in fiera, c'è il treno che arriva in fiera. Insomma, c'è tutta un'altra organizzazione. Tu dici, basta Verona, basta, mi sono no, rotto. No, basta Verona, Verona, vabbè, purtroppo sono stati bravissimi a, far, a organizzare una fiera così. Però basta, è diventata, è diventata troppo grande. In mano e non riescono più a gestirla. C'è poco da fare. Facciamoci altri amici anche a Verona. Va bene il traffico, un cazzo. Tutti qua in coda, aspettare di uscire dopo che hai lavorato giorni in fiera. Con tutti questi qua che vengono a rompere le palle anche. Tu sei qua in macchina 3 ore per uscire dalla fiera. Ma tu scusa, che cazzo sei andato a fare a Vignale? Perché c'è lui il tuo, perché c'è il mio vino, c'è il tuo vino. C'ho la coda fuori, tutti vogliono assaggiare il mio vino. Beh, adesso, buonissimo, adesso è un vino molto buono di Bolgheri. Molto perché buono. Non lo chiami Salvini un vino che fai? Sì, Salvino, figurati. Salvini. No, perché fa rima con cretini e a me i vini generali del cretino va bene. Senti, hai visto che ha detto su Mattarella? Ha detto che praticamente è rincoglionito, cioè, questo in sostanza. No, beh, ha detto... Salvini, parliamo più di pure, Salvini, pure Mattarella per favore, dice, pure non perdiamo tempo con Salvini. Dai. Vabbè, ho capito, ma siamo un paese serio, dai. Ho capito, Salvini. Amico mio. No, ma c'è anche il circo pubblico, quindi Salvini lascialo fare. Tu dici che fa quello parte del circo. Mattarella finalmente ha detto una cosa bella, seria, fantastica. Cioè che bisogna aprire le frontiere, ragione, eccetera, certo. Logico. Beh, apriamo le frontiere, apriamo ma le frontiere a tutti. Paesi hanno fatto questo, apriamo dai, le frontiere a tutti, dai. Tu, ma metti qualche immigrato a casa tua, loro. Ma Liero, guarda, Oliviero, questi quegli immigrati lavoreranno, si compreranno la casa e la affitteranno a te, caro Crociani. Ma figuriamoci. Sì, chi non vuole le frontiere aperte è gente che ha paura dell'arrivo di cervelli, di energie, di gente. Bravo, bravo, giusto. E allora l'Austria che blocca il Brennero, l'Austria che blocca il Brennero, i confini vogliono mettere il filo spinato. Ma come se non l'avessero già messo altre volte. Ormai sono bravi. È nato Hitler lì, è nato Hitler. Ma dove è nato? In Austria Hitler? No, sbaglio. Sì, è l'imbianchino austriaco, certo. L'imbianchino austriaco. Il movimento di marketing più grande al mondo. Chi? Gli austriaci. Sono riusciti a far credere al mondo che Beethoven era austriaco e che Hitler era tedesco. Invece sono bravissimi gli austriaci. Tu dici, ma come li consideri gli austriaci? Grandi sciatori. E basta. No, dai, come dici, Mozart, ma come fai? Ma tu generalizzi tutto, Crociani. No, ma ti sto facendo una... adesso vogliono mettere una barriera al Brennero. Hanno iniziato i lavori per una barriera al Brennero. Ma non gli austriaci. Per il mondo. Guarda, ce l'abbiamo in casa anche noi, ai Salvini, questi qua. Dove cioè, tu dici che Salvini è una testa di cazzo? Lui dice che in tutte le famiglie c'è sempre un cretino. Ma tu stai dicendo che è una testa di cazzo Salvini, scusami. No, ho detto che tutti i paesi ci sono i cretini. No, le teste di cazzo, hai detto. Le teste di... Salvini, vabbè, d'accordo. L'hai detto tu. No, veramente l'hai detto tu prima. No, l'hai detto tu. Hai detto che è una testa di cazzo. No, ho detto che... Sono i cretini che fa rima con... E tu hai detto Salvini. Ma l'hai detto prima tu, l'hai detto. Oh, Salvini, mamma mia, che devi sei, denunciare io. Cruciani, non Toscani. Ma non ti quante denunce hai da Cruciani e Toscani? Quante denunce hai da Salvini? Ma nessuno, ma cosa vuoi far ridere? Ma io sono fiero di avere denunce di Salvini. Un giorno diranno, pensa, cazzo, Toscani diceva che Salvini era e allora diranno, saranno fiero. Ma tu pensa invece quando la Lega di Salvini metterà la bandiera su Milano, l'hanno già governata, sulla tua Milano. ma figurati, perché non è possibile che bandiera cascheranno dal tetto su la bandiera? Perché la bandiera non sono neanche capaci di salire sul tetto, ma non sanno neanche sceglierla, non sanno neanche il colore, figurati. Vabbè, io non ho capito una cosa, Oliviero, ma che sei andato a fare oltre al vino? Cioè, quanto bevi? Quanto hai bevuto in questi giorni? Ma perché? Ma cosa vuol dire? No, ma per capire. Io faccio vino buono, buonissimo, comincia ad avere un grande successo. Non è che lo faccio io il vino, ragazzi, io faccio il fotografo, va bene? Beh, sì, ormai non lo fai nemmeno più. Voglio far fare il vino alla qualità del stesso livello del mio lavoro. Quindi ci sono i tecnici, si compra i tecnici bravissimi che fanno Renzi ha detto che il vino italiano è meglio di quello francese, alle solite cazzate. C'è del vino italiano che è meglio di quello francese, ma c'è anche del vino francese che è meglio di quello italiano. Appunto, è una banalizzazione, una cagata da provinciale anche lui. Dai. Sì, sì, è vero, una cagata da provinciale. Una roba da stupido, insomma, dai, non si dice una roba così. Meglio di cosa? Ma c'è sempre qualcosa di meglio. Sì, è vero, hai ragione. Non anche si può... qualcosa di meglio di Salvini o no? Beh, anche di Toscani uno può dire. Ma è logico, ma è logico. Senti, ma tu devi dimagrire qualcosa, sennò ti mandavo dal professor Lemme. Devi dimagrire qualche chilo? Dai. Mangiamo dei grilli, cosa facciamo? Quanti chili devi dimagrire? Una decina. Una decina di chili? Beh, sì. Subito da Lemme vai, eh. Subito da Lemme. Chi è Lemme? Chi è Lemme? Beh, un e signore. Questo non è un medico, eh. No, no, è un farmacista che però abbiamo riscontri. Quello che dà il cioccolato. Sì, ti fa mangiare pasta un sacco, asciutta, sì. Lardo di colonnata. Allora fantastico, mio uomo. Sì, te l'ho detto io. Senti, sì, io vorrei una tua parolina gentile nei confronti dei signori vegani che pensano che noi carnivori perché disastro, tu mangi. Poveretti, lasciali fare. Perché dai. Dici poveretti? Beh, insomma, hanno bisogno di affetto. Dici. Sono malati anche questi? Ma no, no, mica ha detto che tutti quelli che hanno bisogno di affetto sono malati, hanno bisogno di affetto, di amore. Mm. Sì, dai, lasciare. Io penso che ognuno abbia diritto di essere matto come vuole. Cioè, tu dici, no? Insomma, alla fine c'è il diritto alla follia, sì, ma se non ci fossero i vegani, la tua trasmissione non sarebbe interessante. Prima, cioè, dici, devo ringraziare i vegani. Ringrazio i vegani, ringrazio gli animalisti, i leghisti, gli ambientalisti, i leghisti, i toscanisti, i toscanisti, i crucianisti, i parenzisti. Vabbè, ma tu, uno che ti dice come un vegano, di quelli assatanati, l'animale è uguale a un cardellino, che ne so, è uguale a un essere umano. Gli dico che mica male, c'è bella fantasia, mi piace. E che ne so, tra Salvini e un che ne so, è un tordo, è un maiale, chi salvi tu? Cioè, chi è più intelligente? Beh, chiaramente nel maiale non butti via niente. Invece di No, ma è interessante come cosa. Cioè, ragazzi, devi ridere, bisogna ridere. Ci sono degli esseri umani che sono che tu tra un maiale e Salvini, chi salvi? Chi fai sopravvivere? Oh, è la radio, bisogna parlare. Pronto? Chi fai sopravvivere? No. Ci sta pensando. Devi decidere. No, ripeti, per gli esseri umani chi fa il problema? Che discorso è? C'è una scelta da fare, Salvini e un maiale. Dai, ma che discorso è? Ma perché la scelta? A me questa scelta? E beh, perché per una scelta... Beh, già il fatto che tu ci pensi, insomma. O no? Questo, maiale, ma non si fa un po'... Chi salvi? Un paragone così... No, ma di Salvini non potrei fare dei buoni prosciutti. Invece, quindi, del maiale, sì. meglio far sopravvivere il maiale, sì. Quelle salsicce serve molto, è molto più utile di Salvini il maiale. Il maiale è più utile di Salvini. Allora, qualcuno mi suggerisce che bisogna fare l'alcol test. Se facessero l'alcol test all'uscita dal vinile, li ritirerebbero un sacco di patente. Questo è vero, eh? Cioè, dovrebbe esserci. Beh, logico. Sì, ma cosa vuoi fare il test qui? Non c'è neanche passaggio per. Sguinzagliati i vigili urbani di Verona a fare multe. Sì, ciao, Olivero. Ciao, i vigili di Verona. Ciao, saluto. Ciao. Però potevate venire a Vinitaly. Lo so, hai ragione, però non ci hanno lasciato andare. Ho visto uno stand di Radio 24 di uno noiosissimo. Chi è che. Ma ci sono belle fighe o no a Verona? Al Vinitaly, le tedesche sì, che assaggiano il vino, sì c'è qualcosa. Ciao, sì, ciao, sì, ciao. Sì. Chi è che c'è allo Stato 24? Ma che ne so chi c'è, non so, Rob. Dillo. Non lo so, Barisoni ci sarà, no? Vabbè. No. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Cruciani, sei immorale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. La zanzara. Sono qua con Parigi 1. È mezzanotte, è sabato sera. Ho incontrato Parigi 1 in stazione centrale che ti deve dire una cosa. Dai, diglielo. Ci hai rotto i coglioni. Ritorna alla zanzara di una volta. Con sti cazzo di vegani ci hai rotto i coglioni, veramente. Vogliamo più figa, devi dirlo. Vogliamo più figa, basta. Hola. Non si può avere un rapporto di questo tipo. Io sto con un ragazzo e quando sta con me ascolta la zanzara. Per me il nostro rapporto è un triangolo. Insopportabile. Zanzara, zanzara di merda. Allora, Gennaro da Napoli, vai! Mi faccio sostare dalla sedia per un paio di motivi. Primo, il 21 aprile al Tribunale di Napoli, grande manifestazione in difesa di Spike, un cane, che è stato torturato a Pozzuoli. Quindi si può fare audience anche così, verranno migliaia di persone. No, non ho capito, scusa, che cos'è che ci sarà il 21 aprile? Ci sarà una grande manifestazione, ci sarà un processo a carico di una persona che ha barbaramente maltrattato un cane, e verrà processato, ci sono migliaia di persone. Vabbè, allora qual è il problema? Non ho capito. Il problema è che c'è gente civile che può fare audience e partecipazione anche difendendo gli esseri senzienti e non esaltando. Ah, io sono salviniano, chiariamoci, mi piace Salvini, giusto per dire. No, ma che c'entra sugli animali? No, no, ma le due cose si possono saldare. E nonostante questo, mi indigno se maltrattano un cane, vado anche al tribunale nella manifestazione di Ma è giusto, se c'è un cane maltrattato, il cacciatore che ammazza e se ne vanta l'elefante, per me è proprio un essere immondo, ignobile, una cosa proprio intollerabile. Sarà ignobile, ho saputo che l'hanno insultato, eccetera. E hanno fatto benissimo, hanno detto meno di quello che meritava. C'è anche gente, ma perché civile, uno non può andare, non può andare, ma lasci perdere chi è civile e chi non è civile. Non ho capito perché uno deve essere insultato. Non capisco perché uno deve essere insultato perché dice che va a caccia di elefante. È un'assoluta insensibilità, mancanza di rispetto nei confronti degli esseri viventi. Ci sono dei mammiferi che non capiscono, lui capisce, quindi è più bestia dell'elefante che va a ammazzare. Ma non è così. Noi invece il 21 aprile andiamo a protestare in difesa di Spike. Vede un po' al tribunale. Con le tasche degli italiani. Vabbè, ciao, ciao, Gennaro. E del tribunale di Napoli. Ciao, ciao. Vede? Allora, sai, la vicenda Rina, caro Parenzo, mi ha fatto pensare nel fine settimana a quella cosa che è stata fatta, che abbiamo fatto qualche mese fa, del cambio dei cognomi, quando abbiamo chiamato alcuni sì, che sì. Si chiamavano Totò Rina, sì. Totò Rina in Italia, Salvatore Rina, credo Salvatore, che è Totò, sì. Salvatore cioè, Rina in Italia. Tu dici il capo dei capi. Il capo dei capi. Salvatore. In Italia, in alcuni paesi. Perché sai, alcuni comuni, insomma, non ci stavano, no? Ad avere tra i propri abitanti il signor Rina. Ovviamente non è lui. Sentiamo. Signor Salvatore Rina? Sì. E buonasera, qui il comune? Sì, dimmi. È l'ufficio per il cambiamento dei nomi? Sì, sì. Dobbiamo cambiare il nome? Come va a cambiare? Bisogna cambiare il nome Rina, non ci possiamo permettere di avere una persona che si chiama Rina. Perché? Ma scusi, ma Salvatore Rina, lei lo sa chi è? Totò Rina. Appunto, Totò Rina. Io mi chiamo Salvatore Rina pure. Appunto, dico, ma lei non si vergogna? Perché mi devo vergognare? Ma scusi, Salvatore Rina, Totò Rina, il capo dei capi, ha ammazzato un sacco di gente. Dobbiamo cambiare il cognome, il comune non vuole questo cognome. Le passo il funzionario, aspetti. Sì, buonasera, il dottor De Franceschi, signorina? Sì. Salve, buonasera. Allora, abbiamo appena istituito la pratica, avremo come nome da proporle Salvatore Imposimato. Perché? Perché Rina, come le ha spiegato il mio dirigente, il dottor De Crux, non è possibile, è un nome che non fa buon lustro al comune, Rina, non va bene? Quando viene a firmare, il suo nuovo nome sarà Salvatore Imposimato. No, perché io ho il nome di nascita e tengo quello mio, Rina Salvatore, basta. No, non lo pronunci neanche più, guardi, mi viene la pelle d'oca, e Salvatore lo lasciamo, Imposimato però mettiamo. No. Allora vuole ingroia? Come ingroia? Ma scusa un attimo, io porto Rina Salvatore. Non è possibile, perché è un cognome che disturba la quiete pubblica. Ma che cosa disturba, mi facesse capire. Ma scusi, lei conosce Totò Rina, il capo dei capi? Io lo conosco, sì. E allora non è possibile chiamarsi così. Bisogna fare un'opera di cambiamento del cognome. Questo fa il comune. Domani vengo in comune. Ecco, venga, noi le proponiamo tre cognomi. Imposimato. No, non voglio cognome, io no. Voglio quello mio. Imposimato, ingroia oppure anche Di Pietro, se vuole. No, te lo metti tu Di Pietro. Le ripasso il direttore, le ripasso il dirigente. Sì, salve, eccomi qui. Ha fatto tutto col mio collega? No, non ho fatto niente io. Io tengo il mio nome e basta. Domani mattina ti posso trovare in comune? Venga al comune alle 9:30 di mattina. Dove? Alla portineria. Di Francesco sei tu? Sì, sono io. E che piano sei? Al secondo. Al secondo piano vengo domani. Ma secondo lei chi è? Come lo considera lei Rina, scusi? Rina? A posto. Come a posto? Una brava persona. Ma come una brava persona? Ma come fa a considerare una brava persona? È un super mafioso. E che c'è? Cioè, Totò Riina è una brava persona. Sì. Cioè, il capo dei capi. I capi di capi. Scusi, ma il capo dei capi, mafioso Totò Riina. Che ci posso fare? Ma perché la mafia, secondo lei, non è una cosa negativa? La mafia? Prima c'erano i soldi quando c'era la mafia. Ah, quando c'era la mafia c'erano i soldi. Sì, ora stiamo morendo tutte di fame, capito? Cioè, meglio la mafia, dice lei. Sì, così ammazzano a tutte, escono i soldi. La mattina vengo. Ciao, ciao. O sei là ora? Sto andando via, a casa. Stai andando a casa, ma tu neanche di Valleggio, tu sai. Io non sono di Valleggio sul Mincio, ma stai scherzando? Di Francesco, secondo piano al comune, ci vediamo domani, ciao. Allora, andiamo a Brescia, Mauro. Caro Mauro, dimmi. Pronto? Mauro, vai. Luciano. Dimmi. Ma non ti vergogni? Ma di che cosa? Ma tu hai sangue nelle vene, Luciano. Oddio, Mauro, che cosa c'è adesso? Cosa ho fatto? Cosa ma Mauro ho fatto? Dove? Da Mauro da Brescia. Tu ti rendi conto quello che fai? Ma perché? Cosa ho fatto? Spiegami. È una cosa ignobile, veramente. E quale sarebbe la cosa ignobile? Dimmi. Hai intervistato un macellaio. Ma chi sarebbe questo uno qua? Uno schifoso, io la scorsa settimana andai a non ridire. Quello che organizza i safari per ammazzare gli animali. Ma dico, ma stai scherzando? Ma ti rendi conto? E allora? Qual è il problema? Ma quello è un delinquente. Quello. Ma perché è un delinquente? Quello è soltanto un delinquente. ma dov'è ti rendi conto? Mauro, renditi conto. Ma cosa, delinquente che cosa? Caccia di elefanti? Guarda, sai cosa farei io? Allora, io prenderei te, prenderei lui, lo butto qui nei boschi della Val Camonica, ma, sì. Moderato. E poi ti do la caccia, voglio vedere come ti senti. Sì, solo che non si può fare, invece quella cosa lì si può fare perché è legale, capito? Anche questo è legale. No, ora, non è legale se ammazzi una persona. Questo è legale. Come non è legale? No. Ma tu ti rendi conto che quelli sono degli animali meravigliosi, che sono i leopardi, ma è matto, quello là è un matto, ma nessuno lo mette in galera quello là. Ma chi in galera? Che cosa fare? Ma quale è un signore che va, organizza e spara anche a quattro grandi prede che sono elefanti. Che ma cazzo era? Spara in testa tigre in al leone. No? Perché non ci va senza tutto? Leone? Voglio vedere. Ma perché bisogna andare. Adesso questa cazzata. Stasera è venuta fuori questa cazzata. Che uno per affrontare un leone deve andare senza fucile. Perché? Senza fucile. Secondo te, io col fucile. Sarebbe un matto però se lo facesse, no? No, ma io voglio che lo fa. Ma fino a quando è legale? Si chiama caccia, vecchio mio. Funziona così. Che devi fare? È una cosa ignobile. Non è caccia. È una cosa ignobile. Ignobile. Ma che cosa è ignobile? Tu hai intervistato uno che è paragonabile a Totò Riina. E chi sarebbe? Lui. Ah, quello là. Come Totò Riina. Se uno caccia un leone, come Totò Riina. Dai, su. Non diciamo cazzate. Ma organizza omicidi. La stessa cosa. Dai, uguale. Su, non diciamo stronzate, dai. Io su. Ti dico soltanto, Cruciani, smettila di metterti contro gli animalisti. Perché veramente. Ti dice smettila. Smettila. Ti ha detto smettila. Smettila di metterti è contro gli animalisti. È una schifezza. Io te l'ho detto. Io ti lo dico. A Parenzo no. Parenzo no, lo lascia a casa. Perché Parenzo non è d'accordo neanche con questa cosa. Ma con che con cosa, scusa? Con il fatto di andare a ammazzare quei poveri animali. Ma non, francamente non me ne frega nulla, se posso essere sincero. No, cioè, io non ci andrei mai. No, non ci andrei mai. Io ho detto una volta che farei volentieri la caccia alla volpe in Inghilterra, ad esempio. Quello sì, mi piacerebbe molto farlo. Capito? A cavallo, bello, quello sì. Non me ne frega nulla di fare. Al cinghiale, come magari una volta, a parte se ho alcuni amici, ma non conosco nessuno che la fa, purtroppo. Se no andrei magari a vedere, non a sparare, perché non sarei in grado. Allora metto anche te, se ti interessa. No, avrei anche paura di sparare perché io non sparo. Metti nel metto anche te nel bosco e poi vi do la caccia. Quello va bene. Sì, mettici nel bosco. Vediamo come vi sentite. Dacci la caccia, dai, forza, dacci. Va bene. Anche a Parenzo. Se per te è uguale dare la caccia a Parenzo e Cruciani col fucile buttandoci in un bosco. Oppure dare la caccia, dare la caccia. Provare cosa significa. Ma è diverso, dai, è diverso, basta. Patrick, Macerata. Patrick, Macerata, vai. Ciao amici, buonasera. Dimmi. Ciao. Allora, è premesso che Salvini, diciamo, è un bambinone, è un bocafone, e di buono solamente la fidanzata è che tifa il Milan, premesso questo. Ha detto una cosa giusta. Che noi vogliamo un presidente della Repubblica diverso, che guardi negli occhi i potenti del mondo che sia grintoso, vogliamo Cruciani presidente della Repubblica. No, io non sono... milioni di persone, milioni siamo, non che sono vogliamo adatto io al massimo posso fare delle 20 il 40. Programma è una salsiccia per tutti. Sì, Patrick, io posso fare al massimo la Statua della Libertà in mano col salame, grande operazione libertaria. Tu sei modesto, tu puoi farlo, Presidente. Però, no, non lo posso fare. Beh, certo, non sono... puoi fare. No, non lo posso fare, non lo voglio fare. Siamo in milioni, signor Patrick. Donne, bambini, disoccupati, professionisti, tutti ti vogliono. Disoccupati, sono esagerati, disoccupati non credo tu che hai mi l'idea voglio. Che un disoccupato ti appoggi, dà anche fastidio, mi pare sì, di capire. Esatto, no? Sì, sì. Sei veramente sì, una sì, persona brutta. Dai, chiudi che devo andare al Burlesque stasera. Sai cos'è? Antonio da Bari con mio amico Valdo Gamberutti, il burlesque. Chi se ne frega, Antonio da Bari. Come? Vai. Ma sai cos'è il burlesque? No, sì, tu? Come no, certo. Meraviglioso, il burlesque. Ci sono donnine di poco no. di scarsa moralità. Antonio, ma vai. Che dici? Ma anche la ma come ti Antonio. Permetti? Ciao Cruciani, vai. Ma io stavo ascoltando questi qua, io ho tre fucili, vado pure a caccia, ma è roba da matti. Chi è questo? Questo è un hobby, perché io non devo c'è un'altra cosa, leggo l'altro giorno che io faccio l'estero, sto scendendo la carne. Sto scendendo la carne. Ma chi è questo? E mangio carne. Cioè, non so, vedi quel poverino di Pagnas che vive in 290 metri di casa. Sì, poverino, sì. Con tre suore, ma mi sembra giusto. Tu in quanti metri abiti, Cruciani? Io pochi. Beh, 50. Come me, beh, vero? La reggia in Umbria ne parleremo. Comunque. Poverino, gli altri abitano con case più grandi, ha detto pure quello stronzo. Ma chi è lo stronzo? Se ho bagnato. Che vada bene, eh? Ma tu che carne mangi? Cavallo? Io sì, sono di pari. Cavallo da morire. Cavallo come buono. Se non ci fosse domani. Cavallo come se non ci fosse un domani. Ma cavallo, tu Crucia? Eh? L'hai mangiato il cavallo? Sì, come no? Voglio mangiare un sacco. Ottimo. Noi lo facciamo alla pignata, sai come? Com'è il cavallo alla pignata? La pignata, in una pignata, sai, sì. Di Creta, con la cicoria, sì. Tutte le spezie, mamma sì. Mia, la fine del mondo. La fine del mondo, lo trasporto la carne, vengo lì pure a Milano a scaricare a Pioltello, all'Estia Lunga. E che fai? Che fai di mestiere? L'autotrasportatore? Ah, tu guidi, c'è l'autista, il camionista. Ce la porto sopra, la carne, sto andando a Bari, dalla Francia. Dalla Francia, ma attento alle piazzole, eh? Attento alle piazzole. Dice che ci sta l'assalto dei froci. Ah, vabbè, non mi interessa, scappano via quando vedono a me. Perché? Lo sai? Perché specialmente a Scandiccia, Fiorenzuola. Perché scappano? Io gli tolgo pure i soldi, li faccio avvicinare. Vieni, bello. E poi? Complimenti, ma mi è dispiaciuto, ma come uno non può... Ma lo sai che fanno i safari in Africa per ammazzare i leoni e le elefanti? Complimenti apparenti. Ma che c'entra questo? Parlavamo di gay, adesso è i safari in Africa, che c'entra? Vabbè, Voglio diventare ebreo, parento. Perché vuole diventare ebreo? Non so se è possibile. Ma non è possibile, non è che un club, non è che uno si iscrive. Cioè. Non credo che sia possibile. No, è vero, Cruciani. Ma non si può iscrivere. Capito, Antonio, però non è che uno dice si iscrive. Dai, basta. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.